klassisch gesehen, dass der Gelavo für der Karton der Namarupetze Mikatelo sammeln, sind bis dem Rabo Alem Kapade Sudan Liage, nee, wie vorbei genommen. ጃይና ለስለላ ሳትጠቀምበት አትቀርም የተባለ ሁለተኛ ግዙፍ ተንሳፋፊኛ ለዛሬ ያልነው የዛሬ ስርጭታችን በዚሁ ተጠናቋል። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ አብራችሁ attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Hola. caricata nera e poi c'ha lo stilo. Gaffa. Ma dove passi tu sempre? Guarda, io per andare a lavoro, quando diciamo c'è traffico eccetera, scendo sempre, esco da casa, da via Dau, esco da poi via degli Astronauti, scendo dal Ponte Nuovo, poi prendo lì via Sulcis, scendo, adesso sono in via Forso Antù. E poi da lì faccio, diciamo, verso Corso Trinità ed esco lì dal semaforo e poi prendo un pezzettino di Viale Porto Torre e poi la strada per Alghero, faccio davanti a Coso, a Tanis e tiro dritto. Ho capito, sono quelli qua in vita. Ma mi senti ancora tu? Ehi Anto, fermo al semaforo in via Sorso, tra via Sorso e via Pascoli al semaforo. Perfetto, molto chiaro. E anche tu quando stai arrivando fondo scala, eh? Io spegnete il baracchini che è tardi. Oi Gianni! Buonasera, dai, stavo per andare a portare il cane perché c'è tutta la sera che c'avevo la radio accesa e non è entrato nessuno. Siete entrati adesso? Io sto andando a Antonio. Dove sei, Carlo? In via Boggino. KK, di rientro? No, sto andando, c'ho la notte, oggi e domani. Ah, ho capito. Gianino già mi ha chiamato, Gianni. Capantù. Ma ascolta, io ho provato a guardare dove ho messo l'antenna, non sono riuscito a vederlo. Se tu non passi dietro il cortile non la vedrai mai. Ah, non è dove era attaccata l'altra. Non è dalla cucina. No, vabbè, non è dalla strada dove l'ho messo. Ah, ho capito, dai, è la parte di dietro, quindi non la vedrò mai, certo. Siccome prima ce l'avevi dall'altra parte. No, no, non la metto più. Ok. Avanti, Carlo. Io adesso sto svoltando verso Viale Porto Torres, ho trovato semafori verdi, sono sul cavalcavia, scendo Viale Porto Torres, giro a sinistra verso Tanis. Cappala. Vabbè, io adesso vi saluto, scusami se non ti posso accompagnare, ma devo portare giù il cane che si sta lamentando, dai. Ci sentiamo, ciao Carlo, buon lavoro, dai. Alle prossime, ciao anche a te Antu. Eia, ciao Gianni, vai tranquillo, il cane è prima necessità quello, vai e fagli fare una bella sgaloppata. Adesso me la dovrò fare anch'io se mi passano tutti i dolori che ho, che sono caduto stamattina. Puru, aiu. Stavo lavando in terra e per non sporcare mi ho tolto le ciabatte, sono scivolato malamente, sono caduto dentro il shake, tutta l'acqua rovesciata, un casino, mi è caduta la porta addosso, insomma mi è andata bene. Quello è perché magari ha scivolato col pavimento bagnato e la prossima volta devi stare più attento Gianni, a chi quando cadiamo adesso come uomini grandi ci facciamo molto male, ragazzini cadevi e ti rialzavi, ma adesso sono dolori, va bene dai, se devi andare vai pure, io sto in ascolto, c'è Antonio, bene meda, ciao Gianni, vai Antonio per Gianni. Ciao, vabbè. Ma lo stavo scherzando, stavo. Mica l'ho fatto apposta, sono scivolato, non fa dire nulla qua, là. Ciao a tutti, ci sentiamo, buona serata. Ma mica stavo scherzando, mica. Io ho capito. Anto, Gianni sta andando a portare il cagnolino che ha necessità. Già non se la prende Gianni, già li capisce gli scherzi, non ti preoccupare. Vabbè, questo così, meglio lo penso per male, no? E ci mancherebbe. Adesso sono a Coso, alla rotatoria dove c'è il vialetto, dai. Va bene. Non puoi che affatto. Oh Gianni, vabbè io devo lasciare adesso che sono appena arrivato a casa. Ehi Anto, già ci sentiamo, comunque sono in ascolto, se c'è qualcun altro volentieri, ciao Antonio, alle prossimine, se devi staccare fai pure che avrai il bambino adesso che è ora di pappa mi sa. Ciao, sì. E sveglia, dai, buon tutto, un bacio al bambino, Anto. Ciao, ciao. Grazie, un po' ti sta già, che vuole mangiare. Attenzione Mirko, città di Alghero, se mi ascolti. Attenzione Mirko, città di Alghero, se mi ascolti. Strada 291, Rio Manno, 4 corsie, direzione Alghero, cambio. E Mirko, se sei tu, non ti sento ancora bene. Magari tra un attimo, come salgo un pochettino, riesci a sentirmi meglio. Attenzione Nicolino, città di Olmedo, se mi ascolti, cambio. Canale 10, c'è nessuno in ascolto?